baciarti e farlo ore e ore senza far rumore dentro un ascensore o magari qui davanti a un film e sentire la tua mano che mi tocca piano piano fino ad arrivare a fare tanto amore quanto questo corpo mio ne ha. Svegliarmi la mattina per vederti nuda lì in cucina, bambolina, e possedere ogni tuo respiro, ogni tuo sospiro, insomma tutto di te, tutto di te, tutto di te, insomma tutto di te. Voglio poter dire che la vita è bella, ma non è abbastanza lunga per chi ama come me. Amo e non ne posso fare a meno, quindi tu sei tutto quello che io chiedo e del mondo fuori non mi importa e non esiste più. Spero solo di non farmi male a forza di sognare, a forza di sognare. Spero tanto in ogni tuo sorriso, in ogni tuo respiro, insomma tutto di te, tutto di te, tutto di te, insomma tutto di te, solo te, tutto di te, tutto di te, insomma tutto. Parlare le parole a volte fanno solo del rumore, preferisco fare ore e ore insieme a te. A te con le tue mani, a te che ti abbandoni dentro a questo abbraccio pieno di emozione, a tutto quello che già è e che sarà.